Calinatella longa, longa, longa, longa, struttulella, struttulella, addostachella, innamoratella, non sponda ancora zuc, zuc, zuc, zuc, zucculilla, zucculilla, pastaviarella, carropatella, a domani voglio tutti che credo, ma a to sono pochi chi è stanco e chiagnere. Scalinatella saglia in cielo, uscina a mare, cerca mella, trova mella, porta macchella, sciaguratella. Chella s'è innamorata e non vittora, capito capri e parlo forastiera, e porta in pietà un dolore cora, e sento che m'accide sto pensiero. Calinatella saglia in cielo, oscina a mare, cerca mella, trova mella, porta macchella, sciaguratella. Capri e parla forastiera, scalinatella saglia in cielo, scinna a mare, cerca mella, trova mella, porta macchella, sciaguratella, porta macchella, sciaguratella, porta macchella.